America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Steven Tyler, Dream On, Steven Tyler degli Aerosmith. Beh, vi propongo questa canzone sul piano simbolico perché Dream On, il sogno, e in questo caso torniamo al sogno americano, torniamo soprattutto a Solo Andata, il nostro contenitore dove raccontiamo delle storie di persone che dall'Italia hanno scelto di venire negli Stati Uniti così, per ispirazione, per ambizione, per desiderio, e di restarci. Allora, oggi vi racconto una storia molto particolare, la storia di un ragazzo che arriva qui a 26 anni e decide di mettersi nel mondo degli occhiali, e questa avventura che comincia 20-25 anni fa diventa poi una realtà abbastanza importante. Non stiamo parlando di Leonardo Del Vecchio, che pure ha comprato una gran quantità di cose in America e forse un po' un biglietto di sola andata l'ha preso anche lui. No, stiamo parlando di un giovane imprenditore che ha fatto una cosa più piccola e in un contesto competitivo dove tutto sembra globale è riuscito comunque a crearsi la sua niche. Quindi una storia non soltanto divertente, curiosa, interessante, ma una storia di esempio. Ho con me ai microfoni di America 24 Alessandro Lanaro, amministratore delegato, fondatore di Modo, casa molto particolare di occhiali. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Dunque, intanto il sogno americano e il biglietto di sola andata, ma lei perché è venuto in America? Quando? In che anno? Io sono nato a Cortina d'Ampezzo, dopo il liceo scientifico mi trasferii a Venezia per studiare economia e commercio. E di lì il mio sogno era quello di vivere a New York. Cioè da Cortina a New York. Esatto. Dalle montagne ai grattacieli. Esatto. Ma perché? Forse mi piace l'altezza. L'altezza, ecco, quindi la vertigine dell'altezza. E la vertigine del sogno. Il sogno qual era? Il sogno era quello di iniziare un'attività a New York, in questo caso nel campo degli occhiali, in quanto la mia tesi di laurea fatta a Venezia era nel settore degli occhiali. E quindi le viene un'idea di fare qualche cosa ispirato da questa tesi? Ispirato dalla tesi, ispirato anche dalla situazione del mercato in cui nascevano occhiali in qualità di moda rispetto alla funzionalità. A 26 anni, appena laureato, arriva a New York, il suo sogno americano, dalle altezze delle montagne a quelle dei grattacieli, e si mette a fare occhiali. Come? In quel periodo c'era una tendenza verso la moda, e quindi abbiamo creato una collezione chiamata Modo che rispondeva con le esigenze di un mercato più individualista. Iniziai a visitare ottici negli Stati Uniti prendendo gli ordini dagli ottici indipendenti di New York e poi Boston, Washington e via dicendo. Ma perché a Cortina, a Milano, a Roma non c'erano degli ottici che magari potevano fare la stessa cosa? In quel periodo di tempo vedevo delle difficoltà in Italia dal punto di vista della apertura mentale a nuovi marchi. Oggi il mondo è cambiato molto, però in quel periodo lì era più difficile. Mi sta dicendo che gli ottici italiani preferivano appoggiarsi ai grandi marchi, se lei andava dicevano grazie, bravo, molto interessante, però... Esattamente. E in America qual è la mentalità? Avevano un'apertura mentale guardando il prodotto da un punto di vista finanziario. Se questo prodotto può darmi dei benefici finanziari, lo compro. E quindi abbiamo visto più facilità in America rispetto all'Italia in quel periodo di tempo, alla fine degli anni Ottanta. I suoi produttori allora dove erano? Erano nel Cadore, nella zona diciamo tra Cortina e Venezia, dove da sempre esiste la Silicon Valley degli occhiali. E da lì si inventa questo business. Ci dica dove siamo adesso. Adesso siamo a circa 100 impiegati diretti, 1200 di indotto e vicini a 50 milioni di fatturato. Il quartier generale della Modo è a New York, abbiamo un ufficio a Milano, un ufficio a Stoccolma di design e un ufficio ad Hong Kong. E operiamo in questo momento a livello globale. Colorado.

Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo la serie di canzoni estive. Oggi la dedico a Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!